Se qualcuno ha peccato in una di queste cose, se è testimone perché ha visto o saputo qualcosa e non lo riferisce, nonostante che abbia sentito la formula di scongiuro, porti il peso del suo peccato. O se qualcuno ha toccato una qualsiasi cosa impura, come il cadavere di una bestia o di un animale domestico o di un rettile, e non se ne è accorto, è impuro e in stato di colpevolezza. O se ha toccato una impurità umana, una qualsiasi cosa con cui ci si può rendere impuri e non se ne è accorto, quando lo sa, viene a trovarsi in stato di colpevolezza. O se qualcuno fa un giuramento sconsiderato, sia in bene che in male, in qualsiasi cosa che possa essere oggetto di giuramento sconsiderato e non se ne rende conto, quando se ne avvede, viene a trovarsi in stato di colpevolezza. Avverrà che, quando si troverà in stato di colpevolezza per una di queste cose, confesserà la cosa in cui ha peccato, e come vittima di riparazione al Signore per il peccato che ha commesso, porterà una femmina del gregge, pecora o capra, in sacrificio espiatorio. Il sacerdote compirà il rito espiatorio per lui e lo libererà dal suo peccato. Se non ha i mezzi per offrire un animale del gregge, porti per il peccato che ha commesso due tortore o due piccioni per il Signore, uno per il sacrificio espiatorio e uno per l'olocausto. Li porti al sacerdote, che offrirà per primo quello per il sacrificio espiatorio. Gli romperà la testa dalla parte della nuca senza staccarla. Aspergerà con un po' di sangue della vittima espiatoria la parete dell'altare, e quanto resta del sangue sarà spremuto alla base dell'altare. È un sacrificio espiatorio. L'altro uccello l'offrirà come olocausto secondo le regole. Il sacerdote compirà il rito espiatorio liberandolo dal peccato che ha commesso, e gli sarà perdonato. Se non hai mezzi per offrire le due tortore o i due piccioni, porti come sua offerta per il peccato commesso un decimo di efa di fior di farina. Non vi aggiunga olio, né vi metta sopra incenso, perché è un sacrificio espiatorio. La porti al sacerdote, che ne prenderà una manciata come memoriale, e la farà fumare sull'altare in onore del Signore. È un sacrificio espiatorio. Il sacerdote compia per lui il rito espiatorio per il peccato che ha commesso in una di queste cose, e gli sarà perdonato. I diritti del sacerdote saranno come nell'oblazione. Il Signore disse a Mosè: se qualcuno commette una frode e pecca per inavvertenza, detraendo qualcosa dalle cose sacre che spettano al Signore, porti come sacrificio di riparazione al Signore un capro del gregge senza difetto, da valutare in sicli d'argento al tasso del siclo del santuario per il sacrificio di riparazione. Quello che ha detratto da ciò che è sacro lo paghi, aggiungendovi un quinto, e lo dia al sacerdote. Il sacerdote compia per lui il rito espiatorio con il capro del sacrificio di riparazione, e gli sarà perdonato. Se qualcuno pecca facendo qualcosa vietata dal Signore e non se ne accorge, si trova in stato di colpevolezza e porta il peso del suo peccato. Porti al sacerdote come sacrificio di riparazione un montone del gregge senza difetto, da valutare. Il sacerdote compia per lui il rito di espiazione per la mancanza involontaria che ha commesso, e gli sarà perdonato. È un sacrificio di riparazione. Ha compiuto un sacrificio di riparazione al Signore. Il Signore disse a Mosè: se qualcuno pecca e commette una frode contro il Signore ingannando un suo compatriota in materia di depositi, pegni o refurtiva, o se sfrutta il suo compatriota, o ha trovato un oggetto perduto e mente riguardo ad esso e giura in falso, a proposito di qualsiasi cosa del genere in cui l'uomo può peccare, avverrà che quando avrà peccato e si troverà in stato di colpevolezza, restituirà la refurtiva che ha rubato o quanto ha defraudato, o il deposito che gli è stato consegnato, o l'oggetto perduto che ha trovato, o ogni oggetto riguardo al quale ha giurato il falso. Di tutto ciò rimborserà il capitale, aggiungendovi un quinto. Lo darà al proprietario il giorno in cui compirà il sacrificio di riparazione. Porterà come sacrificio di riparazione al Signore un montone del gregge senza difetto, da valutare, come sacrificio di riparazione. Il sacerdote faccia per lui il rito espiatorio alla presenza del Signore, e gli sarà perdonato qualsiasi mancanza di cui si sia reso colpevole.